ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo undicesimo. Idillio e follia. Il dottor Antonio Amati era profondamente innamorato di Bianca Maria Cavalcanti. Quel rude cuore che era diventato ferreo nella lotta con la scienza, con gli uomini, con le cose, quel ferreo cuore che aveva dovuto ribere tutte le sue lacrime e assistere senza emozione alle lacrime di tutte le miserie, quel ferreo cuore che nella gran semplicità racchiudeva anche la gran freddezza, quel ferreo cuore che di fronte al sentimento aveva la verginità, la purezza infantile, si era schiuso lentamente, quasi timidamente all'amore. Dapprima, che era stato dapprima? L'abitudine di vedere apparire la candida e malinconica fanciulla ogni giorno dietro i cristalli del suo balcone, l'abitudine che è la grande generatrice degli affetti, che li crea, li consolida, li rende invincibili, non altro era stato dapprima quell'apparizione dolce e tenue fra le penombre tristi del cortile, in quell'ambiente che spirava mestizia. E dopo l'abitudine, la pietà, che è una sorgente viva di tenerezza, sorgente che talora si nasconde sotto la terra, sparisce, pare perduta, e più tardi, più lontano, sgorga vivace, fluente, inesauribile. Nelle ore che durò il lungo svenimento di Bianca Maria, fra il parlatorio delle sacramentiste e il nudo appartamento del Palazzo Rossi, quella faccia trasparente, quelle palpebre chiuse dalle ombre violette, quelle labbra smorte di un tenero roseo di rosa languente, gli dettero 2 o 3 volte il sussulto della morte. Ed egli pensò, spesso rivide, spesso, innanzi alla sua fantasia, quella persona giovanile, immersa nel torpore che pareva la morte, la rivide come morta. La pietà rampollava dal suo cuore, ricordando sempre l'espressione di dolore che attraversava il volto della fanciulla, ogni tanto come se un segreto terribile, come se un tormento fisico morale le attraversasse l'anima e le fibre. La pietà lo conduceva a voler salvare quella giovanetta dal suo cruccio. E il giorno in cui, nella fervida mente del grande medico, balenò il disegno di strappare dalla morte, dalla infermità, dalla infelicità la candida creatura, quando il suo istinto di salvatore lo avvertì che la lotta cominciava, quando sentì suonare l'appello alla sua divinazione della vita, alla sua energia, al suo coraggio, quando tutte le sue forze furono evocate da una voce possente per la salvazione di Bianca Maria, egli intese che la parola era detta e che non solo lo scienziato, ma solo l'uomo volevano la salute e la felicità di quella fanciulla, ma che l'innamorato tremava all'idea di perderla e il lieve tocco di quella sottile mano, ora gelida come se non vivesse, ora calda come se abbruciasse di febbre, gli mandava al cervello le fiamme della passione. La parola era detta, con la ingenua tenerezza di un fanciullo e con la severa risoluzione di un uomo, ondeggiando dalle purissime linee dell'idillio alle violente prospettive drammatiche. Egli era innamorato. Perché no? Innamorato, il dottor Antonio Amati, il grande solitario, dal forte cervello e dal ferreo cuore. Innamorato colui che aveva preso la sua reputazione e la sua fortuna di assalto e che fino a 38 anni non aveva voluto conoscere altre gioie che quelle della salvazione degli uomini, altri conforti che quelli dell'ambizione appagata. Innamorato così completamente che tutto gli pareva ormai scolorato, che niuna cosa aveva ormai più sapore, dove Bianca Maria non apparisse, non facesse udire la sua voce fioca e velata da un'emozione. Innamorato. Perché no? Nelle esistenze più umili, più meschine, più oscure, viene l'ora calda, l'ora luminosa, l'ora in cui confini sono così vasti che racchiudono tutto il tempo. E nelle esistenze trionfali ma esterne, nelle esistenze dove la gran pompa delle cose umane si spiega, viene l'ora calda e profonda, l'ora intima e intensa, in cui tutto si raccoglie nel cuore, e l'anima vibra per la forza interiore della passione. Innamorato con intensità, con tanto maggiore impeto quanto più scarsa, più rada negli anni trascorsi era stata la sua manifestazione sentimentale. Un cuore, quello di Antonio Amati, dove si raccoglievano tutte le amicizie smarrite o non avute mai, tutte le tenerezze per parenti, per persone simpatiche, tutte le ammirazioni poetiche del femminile represse, mai manifestate, talvolta vinte al solo loro apparire, quasi sempre subito obliate, tutti i mille affetti, piccoli e grandi, in cui si sgretola il cuore umano. Egli era innamorato, sapendolo, volendolo, assaporandolo in tutta la sua dolcezza, questo frutto tardivo della sua anima, e trovava in questa tarda passione tutti i mille caratteri, tutte le mille impressioni degli amori, degli affetti che non aveva mai provati. La rinunzia era cessata. Il dottor Antonio Amati era innamorato, consciamente. Bianca Maria era inconscia nell'amore. E nella loro sostanziale diversità, i due amori si intendevano, si fondevano, si completavano. Quell'armonia spirituale che rappresenta le più belle, ma anche le più rare, le più brevi giornate dell'anima, era cominciata dal primo giorno in cui lei, dal suo triste balcone, e lui, dalla severa stanza da studio che vedeva tanti strazi, si erano guardati. Dovunque i due pensieri, i due sentimenti, le due persone si erano incontrate, quell'armonia si era fatta più grande. Quando ella levava semplicemente i grandi occhi pensosi a lui, cercando affetto e protezione, egli sentiva trabalzare il suo cuore nel desiderio del sacrificio. Si intendevano senza parole, mirabilmente. Egli era venuto dalla terra, da un piccolo borgo perduto in una vasta provincia, con scarse comunicazioni con la città. Aveva fatto il suo nome, la sua fortuna, lottando con la vita e con la morte, con la indifferenza degli uomini e con il loro odio, acquistando nella lotta un'idea formidabile della propria energia, credendo solamente in se stesso. Aveva un sangue plebeo e una gran mente. Nessuna raffinatezza che venga dall'educazione, dall'ambiente e la vittoria delle sue idealità. Quanto diverso da lei. Era ella una fanciulla di gran sangue, nobilissima, squisita per istinto, per educazione, per ambiente, avvezza a vivere di pensiero e di preghiera, senza ombra di volontà, per resistere al rovinoso fato della sua famiglia, senza energia contro la passione paterna, senza energia per salvare se stessa e il nome, vivente fra le crescenti privazioni, fra i crescenti disagi e vedendosi innanzi un avvenire di sconforto. Quanto diversi e lontani quei due. Pure si intendevano, per l'arcana legge dell'amore che questo vuole, che mescola tutto, sentimenti, sensazioni, tradizioni, origini, che mette il nobile dov'è il plebeo, che pone una forza accanto a una debolezza, che lega invincibilmente due persone appunto per la loro diversità. A lei non pareva di derogare, amando l'oscuro contadino meridionale che era diventato un grande medico. A lui non pareva di discendere di fronte a quella famiglia in decadenza, impoverita di sangue, di denaro, di coraggio. Di lontano erano partite le due anime, che si dovevano amare e avevano percorso gli infiniti spazi spirituali per incontrarsi, per riconoscersi, per ricongiungersi. È la grande teoria d'amore di Platone, che solo gli sciocchi e gli impotenti di cuore osano deridere. La gran teoria amorosa, ancora una volta, dopo milioni di volte, si realizzava. Non pareva fatto apposta che questo uomo ignoto e umile avesse dovuto attingere per propria forza alla fame e alla ricchezza, conoscendo la scienza e conoscendo la vita, perché potesse consolare quella fredda e smorta e dolorosa giovinezza di una fanciulla di alta nascita che languiva nella solitudine e nella segreta povertà. Egli era la forza, in tutta la sua coscienza serena e giusta. Ella era la bontà, in tutta la sua incoscienza misericordiosa e tenera. Quella bontà e quella forza si chiamavano per unirsi, seguivano il destino che le voleva unite perché l'amore creasse ancora una volta un bellissimo miracolo di armonia. Quando ella doveva volere una cosa, levava gli occhi nella faccia del suo innamorato e ne beveva la volontà. Quando egli la guardava, sentiva ammollirsi tutte le corde tese della sua energia e fiorirgli nel cuore la grande poesia della bontà. Ma era destino che tutte le forme della vita dovessero apparire al dottor Antonio Amati come una lotta e che ogni premio concesso in questa esistenza agli uomini di talento e di energia fosse conquistato da lui dopo una fiera battaglia. Così anche fra lui e l'amore, fra lui e Bianca Maria Cavalcanti, sorgeva un gravissimo ostacolo: il marchese Carlo Cavalcanti. E una sera, in cui ella era stata assai sofferente, soffocando di caldo in quell'appartamento senza aria nell'estate e glaciale nell'inverno, egli aveva diretto la sua offerta a Cavalcanti, enunciandola semplicemente, cercando di essere cordiale. «Un momento», Cavalcanti aveva pensato. Sua figlia lo guardava ansiosamente, attendendo la risposta. «Non è possibile», disse recisamente il marchese di Formosa. «E perché?» domandò audacemente il medico. «Così», ribatté il vecchio ostinato. «E voi, signorina, che dite?» Il dottore guardava intensamente la fanciulla per infonderle forza di ribellione, per affascinarla alla rivolta. Alla poveretta batterono 2 o 3 volte le palpebre. Guardò suo padre e poi disse: «Quel che dice mio padre, non è possibile». Avrebbe voluto lui, in quel momento, ricordarle le soavi parole con cui ella gli aveva detto un giorno di trarla fuori da quel baratro, di portarla lontano, in un paese di sole, di verde. Ma in quegli occhi chinati al suolo, in quella seria espressione della bocca, egli trovò un'improvvisa freddezza e gli parve che l'anima della fanciulla gli sfuggisse. Capì di urtare contro l'obbedienza filiale. Una obbedienza profonda e incrollabile, quasi ieratica, come se ne incontra nelle alte classi, dove l'autorità paterna è rispettata ciecamente e dove la famiglia ha carattere di regno assoluto. Una collera soffiò nel cuore del dottore che fremeva dell'ostacolo e che vedeva crollare in un attimo la possanza dell'amore di fronte a un sentimento, a un istinto più semplice ma più antico, di fronte a un affetto che aveva per sé, oltre il legame del sangue, quello della tradizione e della lunga consuetudine. Ma egli, che era uomo di scienza e in cui l'osservazione primeggiava, trovando incomprensibile il contegno del padre, cercava di frenare il suo cuore per giungere a strappare il segreto del cuore di Cavalcanti. Sapeva che la febbre del gioco lo rodeva. Qualche volta, mentre egli era lì, in quel grande salone, accanto a Bianca Maria, si erano presentati 2 o 3 del gruppo dei cabalisti a cercare il marchese. Costui era restato imbarazzato e una volta si era chiuso con costoro nel suo studio, donde le voci arrivavano smorzate, confuse. 2 altre volte, impaziente, nervoso per la presenza del dottore, era uscito con loro. «Che persone sono costoro?» aveva egli domandato alla fanciulla. «Amici», ella aveva detto, volgendo il capo dall'altra parte. «Vostri?» «No, di mio padre». Aveva fatto intendere di non voler parlare di costoro ed egli aveva taciuto. Un'altra volta, un venerdì sera, si era presentato Don Pasqualino De Feo, l'assistito, con la sua cera morbosa e i suoi vestiti sciatti e sporchi. D'un tratto il dottore si era rammentato di averlo visto, sì, proprio all'ospedale, dove era giunto tutto lividure e contusioni, quasi avesse preso una solenne bastonatura, e si rammentava il parlar fantastico di costui. Mentre l'assistito discorreva sottovoce col marchese nel vano di una finestra, il dottore aveva chiesto pian piano alla fanciulla: «Anche costui è un amico?» Ma l'aveva vista così smorta, con gli occhi così pieni di sgomento, tanto vinta dalla paura di qualche cosa che egli non sapeva, che aveva taciuto. Si ricordò che nel giorno del deliquio, rinvenendo, ella aveva voluto mandar via di casa quell'assistito. «Vi è antipatico, è vero?» «No, no», disse ella. «Io sono sciocca». Temeva che Amati avesse disturbato il colloquio di suo padre con l'assistito. Ma costoro, trovandosi impediti a discorrere, si disponevano a uscire. L'assistito passava con gli occhi bassi, ma Amati gli gridò: «Siete guarito, eh? De Feo, di quella bastonatura!» Quello si scosse, si passò una mano sulla fronte e rispose senza guardare il medico: «Ho avuto la grazia. Da chi mi ha mandato la disgrazia? E da chi? Chiese il dottore ridendo del suo riso di scettico. L'assistito tacque. E Cavalcanti, il cui volto si era acceso, i cui occhi scintillavano, soggiunse subito, con la sua voce turbata da un'emozione: dallo spirito. Quale spirito? Domandò con una risatina il medico. Caracò, lo spirito che assiste Don Pasqualino, rispose enfaticamente il marchese. Voi ci credete, marchese? Ribatté Amati, gittandogli uno sguardo scrutatore. Come nella luce, replicò il nobile, levando gli occhi al cielo esaltatamente. E voi, signorina? Chiese il dottore a Bianca Maria, investigandone la fisonomia. Ella fu lì lì per rispondere, che non ci credeva, che non ci voleva credere, che aveva grande paura di crederci, ma le parole le furono gelate sulle labbra da uno sguardo stralunato del padre. Si vide sulla faccia lo sforzo che ella faceva per mandare indietro il suo grido di dolore e vagamente, facendo un gesto largo, ella disse: «Non so nulla di ciò». L'assistito sogguardava obliquamente il medico e per la prima volta l'espressione di misteriosa umiltà si frammischiò sul suo volto un'aria di rabbia. Torse il collo come se trangugiasse un osso duro e tirò nascostamente per la manica il marchese Cavalcanti per andarsene. Ma costui, nelle parole, nel sogghigno di Amati, aveva intravisto lo scetticismo più completo e, come tutti gli allucinati, sentì crescere la fede nello spirito assistente e provò un grande ardore di convincere Amati. «Voi non credete allo spirito, dottore?» «No», disse seccamente costui. «Né allo spirito buono né al cattivo? A nessuno di essi. E perché? Perché non esistono. E chi ve lo ha detto? Ma la scienza? Ma i fatti? Basta, mi pare», replicò semplicemente il dottore. «La scienza è sacrilega», gridò il marchese irritandosi. «E i fatti hanno dimostrato che gli spiriti esistono. Posso dimostrarvelo». «È inutile, non ci crederei», e sorrideva lievemente per compatimento. «Gli spiriti ci sono, signor mio, ed è in mala fede che i cosiddetti increduli negano la loro esistenza. In mala fede perché non sanno i fatti e li dichiarano falsi. Poiché non hanno visto nulla, coi loro occhi foderati di scetticismo, dicono che nulla vi sia. Mala fede, mala fede». Il medico aveva sorriso di quella sfuriata, ma guardando Bianca Maria vide che ella era alla tortura. Intese che in quella discussione forse si celava il segreto di quella ostilità ed, essendo abituato alle escandescenze degli infermi e degli esaltati, guardava il marchese con l'occhio medico, seguendo le violente fasi di quell'eccitazione. Egli si morse le labbra per la collera. Ma quale ispirazione maligna lo aveva deciso a mettersi fra quel padre e quella figliuola in quell'ambiente così bizzarro di follia, di infermità, di miseria e di vizio? Che veniva egli a fare con la sua rude onestà, con la sua integrità popolana, in quell'esistenza che fluttuava fra la demenza e la povertà? Che impicci, che legami creava al proprio cuore che sinora si era mantenuto puro e tranquillo? L'ora suprema era giunta. Bisognava spezzare bruscamente ogni cosa, se ancora egli voleva scampare da quei vincoli, dove tutti i suoi antichi istinti erano soffocati. Si ribellava finalmente a quei complicati romanzi, a quei sottili e tormentosi drammi. Egli era l'uomo dalla semplice storia. Si levò, risolutamente dicendo «Addio». Ella anche si levò. Comprendeva che prima suo padre e dopo lei avevano esaurito la pazienza di quel leone. E fiocamente gli chiese: «Domani verrete?» «No». «Un altro giorno, dunque?» «No». «Qualche altro giorno, quando non sarete occupato?» «No». Le tre negazioni erano state pronunziate assai recisamente. Bianca Maria fremeva di spasimo. Egli andava via, non sarebbe più ritornato. Aveva ragione. Era un uomo forte e serio, dedito al suo lavoro, a un lavoro che era una carità e una salvazione. E lo si travolgeva in una decadenza della ragione, della dignità, in una compagnia dove egli faceva la parte di un amico, di un salvatore, ed era invece offeso, insultato e finalmente preferito a un ciarlatano, a un truffatore. Aveva ragione di partire, di non tornare mai più. Ma ella si sentiva perduta, in preda agli attacchi della demenza se lo lasciava partire, e guardandolo supplichevolmente gli chiese: Non ve ne andate, restate. Che resterei a fare? Devo farmi scacciare domani da vostro padre? Perché ho sopportato la scena di poc'anzi? Dovrei sopportare ancora? Io non vi ho fatto nulla, disse lei, torcendosi le mani delicate per frenare il suo strazio. Addio, replicò lui senz'altro. Non ve ne andate, non ve ne andate! E due grosse lacrime che non aveva potuto frenare le si disfecero sulle guance. Egli aveva resistito alla voce, alle preghiere, a quel pallore, a quella commozione, ma alle lacrime non resistette. Era un uomo duro nella sua grandezza, ma il pianto di una donna o di un bimbo gli faceva dimenticare tutto. Vedendolo tornare indietro, sedersi di nuovo, vinto dalla sua naturale bontà, ella non resistette al pianto che le soffocava la gola. Ricaduta a sedere, con la faccia nascosta nel fazzoletto, singhiozzava. «Non piangete», le mormorò lui, sentendo che quel pianto le faceva bene, ma non potendo sopportarlo. Ma perché ella si calmasse ci volle qualche tempo. Aveva troppo represso i suoi sentimenti perché lo scoppio non fosse clamoroso e lungo. La serata di giugno era assai calda e il soffio dello scirocco deprimeva i nervi delle persone sofferenti. Solo di lontano, dalla salita Pontecorvo, un suono brillante e plorante di mandolino arrivava. «Oh, cara, cara», le sussurrò lui, carezzandole i capelli bruni, mentre la testa della fanciulla si riposava per un minuto su quel forte e fedele petto di uomo. «Promettetemi una cosa», chiese ella con un atto infantile. «Ditela. Promettetemi che non giudicherete male mio padre. Promettetelo. Sappiatelo, egli è il più buono, il più affettuoso fra i padri. Qualunque figliola sarebbe gloriosa di averlo per padre. Io stessa ho per lui una reverenza, un amore che nulla può far crollare. Io voglio che voi non lo accusiate, di nulla. Dovete promettermelo. Il suo traviamento fatale è ancora una forma della sua bontà. Egli è così infelice in fondo. Vi prometto, Bianca, di essere indulgente, come voi potete essere indulgente. Mi basta. È un infelice, amico mio. Da anni e anni che la nostra casa è declinata. Quando? Perché? Non mi rammento, ero piccina. Non so neppure di chi sia colpa questa decadenza. Non voglio saperlo. Mi ricordo solo che mia madre era una creatura pallida e languente, dalle sottili mani sempre gelide. Come le vostre, povera cara, come le mie, replicò ella con uno smorto sorriso. Di che è morta la mamma? Di anemia. Di languore. Negli ultimi giorni non sempre il suo spirito era presente. Delirava? Sì, dolcemente. Ella rispose arrossendo sino alla fronte. Questi spiriti non esistono, Bianca, disse lui con voce ferma e dolce. Ah, io sono così debole, così inetta a difendermi contro le allucinazioni. Quando ho riconquistato un poco di tranquillità, ecco, mio padre, per fantasia propria o per bieco suggerimento di quell'assistito, viene a tormentarmi. Vuole che io veda. E senza curarsi della mia debolezza, della mia paura, senza capire la tortura che mi dà, mi parla dello spirito. Vuole che io lo evochi. Io che sono una fanciulla, io che sono innocente. Invano io tento di resistere. Invano io mi dibatto, invano io chiedo a mio padre di risparmiarmi, di non farmi bere questo calice amaro. Egli è ostinato, egli è accecato, egli vuole che io veda lo spirito e che gli chieda i numeri da giocare. Ed è così forte l'influenza che mio padre esercita su di me, è così terribile il modo con cui egli mi comunica la sua follia, che io finirò per essere come lui, una povera allucinata che si consuma fra le visioni delle sue notti e le ardenti delusioni delle sue giornate. Tacquero. Il sangue era salito alle guance pallide di Bianca Maria. Gli occhi di lei scintillavano e le parole dove si era sfogato tutto il suo cuore erano uscite convulsamente, tumultuariamente dalle sue labbra. Taceva ora. Aveva detto tutto. l'aspro segreto che torturava implacabilmente la sua esistenza, evocato dall'amore, aveva dato i brividi di una paurosa sorpresa al forte uomo che l'ascoltava. Egli taceva, cercando di dominare la propria stupefazione, cercando di riunire le proprie idee confuse. Certo, egli era avvezzo a udire il racconto lugubre di tutte le miserie spirituali e fisiche dei suoi ammalati. Egli aveva sollevato i veli di tutte le onte, di tutte le corruzioni, e come al confessore si erano aperti a lui, affannosi e contriti, i cuori che racchiudevano i più orrendi umani misteri. Ma in verità l'affanno di Bianca Maria era così profondo, attaccava così profondamente le sorgenti stesse della vita, che lo aveva fatto sgomentare dinanzi allo spettacolo di una miseria inaudita. Ma quella povera creatura che si consumava sotto le strette di un morbo non suo, che aveva il suo carnefice in suo padre, quella povera buona e bella creatura, era la donna che egli amava, senza la quale egli non poteva vivere, la cui felicità, la cui salute gli era necessaria più della propria. Perturbato, non sapendo ancora raccapezzarsi innanzi a quel duplice problema di malattia e di passione che rendeva il marchese Cavalcanti l'uccisore della sua famiglia, egli non trovava nulla da dire a Bianca Maria per confortarla. Adesso ella era accasciata e provava un vago rimorso di aver accusato suo padre. Ma non doveva Antonio Amati essere il suo salvatore? Non si sentiva ella tranquilla, sicura, forte quando egli era là? E traendosi dal suo abbattimento, levandogli gli occhi nel volto, timidamente gli disse: «Voi non dite che io sono cattiva ed ingrata, non è vero?» «No, cara. Voi non lo giudicate male, lui. Io lo guarirò», egli disse, pensando. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.